etichette. Ora si dirà che cosa è in casa, magari si è mossa. basta portarla a revisionare. Vado con la personale a revisionartelo. Adesso vediamo. Ma la radio non fa nulla, cioè. Ma l'ha fatto solo così, me l'ha fatto, ma sicuramente ogni tanto già. Sì, vabbè, ma comunque non sarà qualche fesseria. È il microfono piuttosto che strano, che ne tanto esce male. Il microfono vuole proprio vedere da qualcuno. Capagava. Comunque già non è nulla. Mi sono assustato quando, cioè, non può essere, però io già me ne accorgo, non può essere sia lo strumento, l'apparecchio, lo strumento quell'altro, cioè che non segna potenza. Non stava più sentendo, dopo che ha raffreddato mi ha ricominciato a salire la potenza, ha ricominciato a segnare i passi chiusi. Io sono guardando a questa radio, quanta potenza ha dato. Ma tu stavi guardando l'apparecchio esterno oppure quello interno? Quello dell'apparecchio. C'hai un wattmetro esterno? Sì. E quello andava? Un capo andava. Mi sono capitato subito. Che strano, molto strano. No, che dopo che andava ero più forte di segnale. Ma non deve succedere, perché si è fermato, scusa. Se a quella temperatura si deve attaccare la ventola, non c'è Cristo che valga. C'è il trimmer che l'ha fatto attaccare. Non so, già dirti. Magari se lo fa revisionare c'è qualche fesseria da cambiare, ma sarà qualche cazzata. Bisogna andare, posso dirmi, magari la pentolina un po'. Ma dopo che partite è andato tutto bene, non c'è un problema. Cappagato. Va bene. C'è una strada vecchia per la nuova, è sempre un rischio, meglio il baracchino. No, ma già va bene. Cava. Ehi, vabbè. Adesso stai usando quello. Ma cosa? Sto usando l'Intec. Non provi a metterli un MB più 4, più 5 lì, che vanno bene quello che c'hai. Questo rimane così, punto. Questo qua rimane così e bugia, non impongo nulla. No, io sto dicendo il capo, devi metterci al posto del game, devi metterci un microfono normale, dai, così. Non vedete un coro. Che rimane quello, al limite lo faccio vedere. Io saluto, magari ci sentiamo a casa. Devo fare una cosa, ok, ciao. Vabbè, ciao. C'è qualcuno su 10? Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ciao Gianni, buonasera. Mi stai uscendo così male? Sono vicino in AM o FM? In AM siamo. Perché sto uscendo male? Con K che stai uscendo? Con K. Allora è per quello, perché questo qua è stretto di frequenza, quindi quando ci sono apparecchi come il K, ma non tutti, il tuo lo fa, per dire Claudio no, anche Antonio no, e il tuo lo fa, forse perché è vicino. Può essere, potrei provare a abbassare un po', vediamo un po'. Aspetta un attimo, metto l'apparecchio. Prego. Avanti, registrato. Buonasera. Ciao Natali, buonasera. Buonasera a tutti. Mi sa che siamo solamente io, tu e Gianni. Stamattina c'ero, ma mi sono sentito male e me ne sono andato subito. Però, via. Questo tempo è un casino. Ma cosa vuoi che ti dica? La vecchia io è una brutta bestia. Mi sono sentito male stamattina. Ho smesso. mezzo per quello di modulare, mi ho acceso adesso ero coricato fino a poco fa, non ci avevi, e ho vomitato, la diarrea ero, mi sono misurato la febbre e non ne avevo, la saturazione era posto lo stesso, e allora Gianni ci sei? Sì, ci sono. E sogna la radio di qua. Sì, questa qui è Gash. Va bene, no, io ho acceso questo perché lo volevo fare funzionare un po', che era sempre fermo. Ecco, il calascio ti sento umido, dai, però con l'altro è troppo stretto di frequenza, invece, ti sento tutto gracchiato. E a me come mi sentite? Adesso l'ho alzata pure io. È una bevanda. Stavo bene, l'altra. Va benissimo, alla grande. Cavagava. E tutto cavagava, no? E cavagava, i vasi sono pochi, come al solito. E io va bene. Comunque ti vasi la voce un bel grossa. E rauca, non proprio limpida. Ma a me? No, bravo. Perché sono rauco io. Ah, rauco, sì, allora potevi dirlo. Se mi avete già un apparecchio. Ti curais. Avanti, tantalì. C'è questo che mi vuole dire qualcosa, ma non lo capisco cosa vuole. Boh, il scopano. Il premio glielo ho dato. Ti vuole, aspetto. Ma la pipì. Aspetta, aspetta che vada a fare la pipì. Forse deve andare a fare i bisù. Ma il pappagallo ho trovato, lo hai. No, ragazzi. Mi sali fino a chissà indietro. E vabbè, pazienza, dove devo fare? Ma come ha fatto a fuggire? Ce l'avevo liberi in cucina come ogni giorno quando il pulivo la gamba e mi liberavo, no? Quello qui stava sempre attaccato a me, anche se saltavo non mi usciva dalla spalla, stava sempre attaccato. È strano, sono andato praticamente, stavo guardando il televisore e di colpo il televisore si è messa di colpo la radio, ho detto ma come mai? Ho preso, stavo andando a prendere gli occhiali per guardarlo, come ho aperto la porta, ho visto la porta del terrazzo aperta della sala di cucina. Cioè, allucinante, quello non lo trovi più adesso. Ehi, vabbè, quello c'ha il microchip e se ne lo trovano a chi lo prende che non lo restituisce, sono cavoli amari. Perché quelli con i pappagalli senza CITES devono avere un documento CITES, se no non si possono ottenere. Lo so. Vabbè, confesso, ci ho fatto roba dell'altro. Vabbè, ma dispiace sempre quando perdo una cosa del genere. Certo che dispiace, sono 32 pancaini. Cosa è successo? Perché già? Mi è scappato un pappagallo stamattina, mi è volato alla finestra. Il cavolo, ma tu puoi pagare la becca? No, non me l'ha aperta, io ero in un'altra stanza, come ha aperto la porta della cucina, è scappato e è andato in sala, quella della sala era aperta, sì, però io ero chiuso in cucina, sono andato a prendere gli occhiali e di solito non scappava mai, stava sempre sulla spalla. Oh, provassi che tu, nemi. Chi lo sa. E vabbè, se non ne ordino un altro ce la prende il giudice, ce la perché solo la femmina non la lascio. E cosa vuoi che ti dica? Sono abbastanza. Io lo stesso che ho il maschio solo perché l'ha ammazzata la femmina, ma non era giubilato, lui paga la usura. E ha beccato la testa. E allora me l'ha ammazzata quel bastardo. E così ha fatto le 15 lisi che c'avevo io, mi ha buccato lungato. E allora ho preso e ho liberato anche a lui perché io non le voglio animali così. Quella lì faceva le uova tutto grande. Faceva le uova ogni giorno in quella lì. E siccome non le covava, ci voleva l'incubatrice. E le dava a taglio, non li metteva in mezzo alla roba da mangiare e le dava fruttine a lui. Ho capito. E allora quindi non fa a comprargli un'altra femmina, così è. Ma al canarino mio. Gaffaro, sai cos'è? Che tu li dovresti dividere, poi il periodo della coppa, il periodo di primavera adesso, si mettono insieme, capito? Si mettono insieme per copulare. Se il pappagallo, se il canarino maschio o anche altri uccelli vedono che la femmina non ci sta, allora li rimasto. Giocate con noi. Infatti non so se contrario la femmina oppure no. Fino via. Magari l'ha fatto solo perché non ci stava, capito? Infatti. Però così a essere malvagi. Aisha, vedi? Sono così, ribuccavo la testa. È una cosa allucinante. Fra, quella che c'è tu cos'è femmina? Li fatti accoppiare, li fatti figli. Non lo so se è femmina o maschio, quello giallo è, l'altro, il pappagallo ha buccato la testa. Guarda, se fa giù, solo così, vuol dire che è femmina. Se invece fa il gorgio, dice è maschio. Ma non canta neanche questa, Fa solo giù. E mi sa di sì, Allora è femmina. I muri d'alcol, con la pelle, li fate accoppiare, quando la scuola è finita di vendetta, sai? Infatti. Ma s'arregalla. Erba pagallo l'ha buccato il gabbo a quell'altra. E come è successo alla canarina mia? L'ha ammazzata, bastardo. Non voglio mettere assieme, No, vogliono messi solo il periodo della coppa. Se tu li metti insieme quando è fuori il periodo, la femmina non ci sta e quindi il maschio gli becca la testa. No, il pappagallo che ha beccato la testa al canarino. Ah, vabbè, quello è il caso lì, perché va insieme e ha buccato il cartone e si è entrato. Meno male me ne sono accorto, se no avrebbe ammazzato anche l'altro. E sono piccoli. Mi ha fatto una beccata l'altro giorno, la femmina. Perché a me? La femmina sì. Perché c'è periodo di coppa, però. C'è periodo della coppa, quindi è probabile che per quello. Come gli metti la mano nel nido, guai, ti attacca, David. Così. Ma il nido non è quello che mettiamo su muri, è una scatola di legno e si deve riempire di segatura per fare le uova, se no non ti rimane mai. Ah, così è. I pappagalli hanno il nido diverso dai canarini, Mitra. Io non me ne intendo, una carina. Ma sicuramente il pappagallino che te l'avevo regalato io, come mi vedeva? Ma poi da se mi riconosciva, mi. Subito mi cazzo... Che non pure a pigliare loro, pigliamo ogni avicuricata in curia, non voleva toccarlo, capito? È questo lo stesso. Che mi curteggia. No, ma quindi che c'ha fatto il pappagallini? Non ci ha le mille mani, si è abbracciato tutti i gatti, non le vado di nulla. Forse Luciano è a Franco sicuro, perché anche a Elena la beccano. Invece a me non mi tocca, non mi danno la beccata. A me apriva le ali subito come mi vedeva quel pappagallino perché non voleva toccarlo. Quello che avevo regalato a Franco. Ragazzo, e io sei nato da una coppia di bravi io di pappagalli, da cui l'avevo regalato a mio cognato e vi ha ammazzato un falchetto, tutti ammazzati, sia i canarini che i pappagalli. Però è rimasto un burueto attaccato alla gabbia e il muschio. È cribato, si è incastrato. Si è incastrato, ha ucciso gli ha, perché lì li ha tolti fuori, no? Il falco è arrivato, la sogna al falco, mamma mi. E allora sapete chi è stata. E l'ha già sciappata piccata alla gabbia, mossi, Buraedo. Se no magari aveva videava di cocacchiata, che non entrava nulla. Vabbè, perché fuori c'è più un rischio mettersi, che c'è la verata come ce l'ho io, li metto fuori, c'è la finestra masculante aperta, entra l'aria, però nello stesso tempo sono protetti da... Ma ho visto là, lì l'ha attaccato fuori, in terrazzo, la gabbia l'ha attaccata al muro e ha chiuso il palco. E l'ha ammazzato tutti i bisogni. Io l'altro giorno ne ho liberato uno da una ringhiera di un piccione. Praticamente stava volando, non si è accorto che c'era una ringhiera a quadrati. Si è entrato con un capo dretto, per un capo e là, e si è cassato. E non riusciva a uscirne. Ho sentito boom, dietro, io ho bloccato. E penso subito, è andato qua a lucingare, tu fermo. Ho preso piano piano, l'ho liberato, c'avevano le ali un po' scalcite, un è castato, l'ho piegato un pochettino, l'ho fatto uscire fuori, non liberato. Ragazzi, chi su palco, cazzo, poche... subito gli ha ammazzato tutti gli uccelli a mia cognata. Ma già è rimasto attaccato Burueda, raga, abbiamo su in palo, è rimasto incastrato quello. Non ce l'ha fatta uscire con un gambo della scena. È entrato e l'ha fatta, no. Infatti. E ho trovato pure a lui morto. Ma bello quel falco, tu lo devi vedere. Ci credo, perché a vedere sono bici, ma sono male. Quelli sono rapaci. Tu quando vedi gli storni non ne hai mai visti che sembra fumo quando nel cielo. Ci sono praticamente i falchi che li seguono e loro cercano di deviare quando fanno quella danza nel cielo. Me l'ha spiegato un cacciatore, lo sapevi, fra? E aspetta, mi sto facendo il caffè, dai, riprendi. E infatti, lo fa. Capito, Natalia, quando si vede quella danza nell'aria dei disturbi, perché quelli vanno verso le 5, sono sui vidri alti, si abbassi, e io quando andavo a lavorare andavano nel cannetto di Plattamona, loro, no? E praticamente ci sono i falchi che li seguono. Perché sono rapaci e devi venire a mangiare, non hai compreso? E fanno quella data che sembra fumo, sembra, perché ce ne sono migliaia, no? Ma proprio un bel nuvoloni, sembra fumo. E sono come i turdi, sono neri, sono come i turdi, sono. Quali sono state? Sono la mia parte, dice, c'è tipo un maneggio legato un basso. Io non li piace con Valco, è subito, mi andano, come si rivedi, li attaccano di brutto. Di cerco di scappare. E ieri con la ciarpa i suoi. Ma sai che stengo questo cazzo di televisione, non ci capisco nulla. Cazzo, andrei un cane alla televisione, non ne comprendo più nulla. E ho detto ieri che cosa hai avuto, come ti sei sentito male. Stamattina, non ieri, stamattina mi sono sentito male. Stavo parlando al baracchino con Carlo e con Gianfranco, a un certo punto mi sono sentito male, mi è venuto a vomitare. E niente, sei mangiato, qualcosa ti ha fatto male? Oh, stamattina un cornetto e buco ho mangiato. E buco, magari roba influenzale, roba di virus. Ma cosa ne so, qua, meglio la morte. Esagerato. E guarda, mi sono sentito male veramente. Tu sei come quel bambino di 12 anni che il padre l'ha sgridato, si è chiuso in camera, il padre ha aspettato che andasse a cena e non andava. Ha aperto la porta a forza perché non le apriva e si era buttato alla finestra perché la rimproverava. No, io non sono così. Io ho detto meglio la morte perché mi sono sentito male, un bel capitolo. Ah, ecco, modo di dire. Così grave, dai, magari non è di predisposto, ma c'è pure già un carroncino che magari non aveva la crema e ti ha fatto male. No, una di quelle merendine, era, non ne aveva crema. Ah, ma già sai che te lo ne puoi mangiare. ma a me no, cosa mi faccio? Non mi faccio nulla una di chissi a colazione, buh. Manco mi rimanendo una graffa come se chi ti puoi mangiare tu e chi si è nei belli pieni di zucchero. Io mi volevo mangiare tutto il bar che c'è, ragazzi, c'era questo bel di Dio. Ma qua a Sicilia non aveva così tanti bar, non hai visto quanto ce n'erano in quella vetrina, Una mancata venire. Perché in quello lì ti sparo, perché non vai, capito? La mattina ci fa un po' di gente a fare colazione per i suoi uffici, tutto gatto. C'è il sindacato, ci sono gli uffici più dell'estero che mi pare. E vabbè, comunque, colazione, va di un bel. Me la posso immaginare con tutte quelle pasta che sono. Ah, lo sai che mi sta venendo la voglia pure a me di mangiarmi, e resisto, non ne mangio. No, io guarda, domenica era il compleanno di Maurizio e ho comprato 20 di pasta. Dato con lei la sono andato perché era già tardi, quindi l'ho ho preso lì da Totone, l'ero vicino, l'ho preso lì. Ma sono buone, mi fa più della pasta, ma quel camoncino mi riempie di crema, non so quale avviso. Me lo posso immaginare, è lui che dice di farle grandi, più grandi delle altre. Sì, fa camoncini un bel grande, poi ha preso anche di quelle paste alla frutta, insomma, erano buone, quasi tutte con la crema, perché io sono partito ciabatte, tagli salomà con la crema, mi piace pure. Ma va a me a Trendi pure a me, ma io non ci sto più andando al bar proprio per non mangiarne. Né caffè né nulla. Me lo faccio qui il caffè e basta. L'altro giorno ho provato la macchina a fare la revisione e mi sono fatto una passeggiata perché ho detto passa fra un'oretta. Perché ne avevo da fare, e quindi mi sono messo a passeggiare e sono andato sino al mercato, questa è la piazza d'Italia, cosa, e passando lì via Pascoli ho visto a Luciano, quell'amico tuo, quello che si è rotto. E quello, chi se la camionista era, chi su buttava l'articolatum. Gli hanno ritirato la patente a quello perché prende delle pastiglie che gli fanno venire sonnolenza. Sì, e poi non può guidare così, se non riesce a camminare. Ciao solo, ciao ci portava la merce a lui, non so, me lo ricordo che era camionista. Non mi ricordo con l'autopreno, però mi ricordo che aveva un carro tre assi, mi pare, che ci portava la roba, poi deve essere cambiato lì. E in continente è stato parecchio. L'articolato portava, solo che non gliel'hanno più rinnovata per quel motivo, perché prende quelle pastiglie per il dolore. Ma lui effettivamente che cosa c'ha? Cos'è che ha esattamente che non lo fa camminare? Perché io l'ho conosciuto che camminava tra il è tutto pieno di ernie questo Luciano, e poi è troppo grasso, ma mi sa che non si muovi, io gli ho detto devi dimagrire Luciano, sennò è peggio. Lo sai, le ernie ti vengono quando stai sempre guidando, quello ti viene da dare il disco, quando uno fa la vista è soggetto. Ma lui ha altri tipi di ernie, non ne ha ernie al disco, no? Lui ha altri tipi di ernie che non si può operare, e pigliava queste pastiglie, gli avevano ordinato che siano medicine, non lo so, roba che ti fa svenire il sonno comunque. E allora la patente non gliel'hanno più rinnovata per quello. E quindi adesso preso la pensione invalidità. E allora, già ne ha contributi, ne ha molti Luciano, infatti quando raggiunge l'età gli danno la pensione sua, non lo so se l'ha già raggiunta. Io andavo ogni mattina al bar lì, prima che c'avevo quello che mi è successo, invece avevo e Rosandi. Lo sai cos'è, che cosa per me ti viene anche la voglia mangiarti la pastina con la colazione. Già me lo mangiavo il cornetto con la marmellata o con la crema, il caffè mi bigliavo con lo zucchero, da vai a un anno che non ho più zucchero, nel caffè. Ah, pure questa ci voleva. Si convive la salita di qua. Già lo so, ma è una prigione, adesso lo capisco cosa vuol dire. Ma poi non puoi mangiare, la roba che ti piace non la puoi mangiare, che ciò che non ti piace non puoi mangiare. Per dire, io il pesce, a me non mi si fa, il pesce io lo pesco, però a mangiare non mi piace. Mi piacciono i molluschi, cosa tipo i crostacei, ma proprio il pesce, i frutti di mare, ma proprio il pesce non mi piace. Se tu mangi il pesce, Natale, la dici mia, come se non l'avessi? Io ci ho provato a fare una settimana mangiando solo pesce. Allora, sempre la dici mia, 89, 87, 89, sempre così. Già lo so, ma a me non mi piace il pesce, so come te, ma a me mi piacciono i frutti di mare, gamberi, tutte quelle cose lì, però il pesce nisba. Se vuole a me. Quindi non sai a me cosa mi piace di pesce, il salmone, il il salmone lo faccio alla pizzaiola, è troppo buono, quell'unico mi piace troppo, però un altro pesce, l'orate per quello romanino, non mi piace ne assai, non è che ci vado male, ma mangio sì, ma non ci vado male, capito? Lo mangio una volta ogni tanto, te lo dico, non mangio pesce. E infatti, a me, proprio non mi si vara il pesce. Cazzo, mia moglie gli piace il salmone lo stesso. Quelle orate da porzione, quelle lì, ti rigusti e ti rimangi, con te. E tu, ma io, a tutti i dini di me, e a me non mi piace, è inutile, è più forte di me. E poi quelle d'allevamento, c'è un amico che lavora all'allevamento, ma sto già, non rimaniti che c'è là, ma carità, ti dà tutta farina animale, tutte bucanine, bussa come un coso con la roba che mi dà. E allora, a mangime sono allevate quelle. E mangime gli animali di carico prefato, tutta roba non ci può. E già lo so io, che sono allevate così. Ma a me non mi piace nemmeno chissi di mare, nulla. Qualche volta lo sai come mi piacevano quelle di mare. Qualche volta quando ho preso le pescavo e poi qualcuno l'aggiungevo anche, la compravo. Facevamo le arrosite con l'antudio e facevamo, riparavamo con sale e poi messe sulla grattugia. Quella non si assopò, mi disappuriva. Cosa? È Franco che fine ha fatto? Franco! A parte deve lasciare il caffè, anche se era meglio dare un caffè. È Pogurongo che c'è un caffè. Il caffè vuole corto. E comunque la cosa vuole. Purtroppo io prima dosi non ne cercavo. Mamma ricomprava solo nelle occasioni, a compleanni. Queste cose qua, se non dolce a casa non è che la dici che bagniamo i nostri tutti i domenichi, no, non le prendeva tutte le domeniche. Adesso capo vado a comprare al Vitali e dice il bar, no, mi saluta la tipa che c'è, io ho già posato e vabbè, mi dà proprio il caffè, poi vedo le paste, oh mamma mia, di voi sa usci più. A chi ti ripeti in chivi? Io non sto andando più al bar perché se no mi viene la guida di mangiarmela, una frittella, un cornetto, ma è meglio evitare. Le frittelle sono quelle che mi piacciono di più, che però farò più male perché c'è più zucchero. Chi si sono buoni, ma a noi si fa i mari. E mamma per esempio non ha mai mangiato in vita sua di dozzi. Eppure la diabetica, e dozzi la via, canto ne curia, si ne curia magna, però no, no, ne ave, no, non ne andava matta dei dolci, non ne mangiava, eppure era giunto il diabete, vabbè. Perché il diabete va bene sotto i dolci, per i carboidrati in eccesso, domani mi ricordo di prendere un bel pane di una mortadella, me lo ricordo ancora. Il domacco mi ricomparava. Ripiante le ghisci, quindi i carboidrati così, già li sciacquati fanno male per il diabete, poi anche il pane, che puoi immaginare, i carboidrati sono micidiali per noi, ma non ne mangio, io sto mangiando cracker integrali, un pacco di cracker ogni pasta, buon pasta. Io ce li ho i cracker, ma sono salati, di quelli salati, di quelli normali. No, io ho preso l'integrale, sono ben buoni, sono saporiti, sono meglio di chi si sa. L'unica cosa che non posso fare è la scarpetta. Col sugo. L'altro giorno ho fatto il pollo alla cacciatora, è più buono il sugo del pollo. Oh, yeah. Mi stanno avendo qui a fare la scarpetta, non potevo farlo perché non credo che viene mai, non assorbo nulla, le lancio un po' sanguigno, ma non assorbo. Non è come interurbani, no? Ci sono tante cose che vorresti bagnare su, tipo la trippa, l'altro giorno ci abbiamo fatto la trippa e mi veniva voglia di metterci il pane a bagno. queste cose qui mi mancano, perché a me io pane ne mangiavo, dico la verità, due panini mi mangiavo, ora c'è questo compagno di un pacco di greci, immagina. Ma ci stai mangiando tutti e 4 chili dorati. Carino. Ma non ti piace l'orata? Andavi a pescarle. A pescarle ci fa. Allora il macellaio deve mangiare la carne perché la vende. Il macellaio di solito carne non li mangia a chi riso su. Cosa ne fai degli orati quando le fischi? Le portavano a casa, le mangiavano gli altri. Ah ecco, quindi diciamo che tu vai a pescare quei rubi. Sì. Più che altro mi piace pescare le siepi, quelle mi piacciono a fare quei pisini. Ah, quelle visini mi piacevano più. Sì, quest'anno ci sono andato io, poca roba, qualche sippia, qualche calamare e basta. E a me pure quelli mi piacciono. E c'ho anche la canna nuova per andare a pescare e non l'ho ancora usata. Dimmi tu, chi se ne arredenti, chi vivrà? Se non lo vedi questo tempo, un po' piove, un po' c'è vento, adesso c'è la mare brutta questi giorni, tramontana, via. Già l'ho visto domenica già il mare, era incazzato forte. Bisogna andare a pescare quando c'è il mare così, capito? No, non molto incazzato. Quando è molto incazzato prendi sale, della schiuma prendi sale. Però quando è incalata il mare, quando è incalata che c'è le onde lunghe, così si pesca. Io le orate belle le ho prese solo così, quando c'è il mare incalato. In caduta, non mare in caduta. Vedi quando c'era quella tramontana, in caduta era buono, vedi? Quando calano le onde, là, quando sono allungate, le onde sono lunghe, si pesca. Sì. Gioia. Speriamo quest'anno di fare qualche pescata quest'estate. Sì, vabbè. Bisogna ricare, l'hanno fatti. L'anno scorso sono andato una volta e dopo non sono più tornato. Quando sarà più contento sono andato una volta a Fiume Santo, io non abbiamo preso niente. Ma a me non mi è mai piaciuto, io dico la verità, preferisco Platamona di andare via, spreco un po' di benzina, quando vai in Platamona io pigli più roba. Sì, ma neanche a Platamona, non stanno prendendo niente neanche lì già, capito? Ma vai tutto chiuso da lì. Ma che buttare il parametro, capito? Ti andavo lì a coso. Vai tu col camper, chi va nel bar della torretta, prendevo sempre bene, prendevo latte, anche da mezzo chilo, mi accontentavo da 600 grammi, e ho preso anche una latta bella, io ho preso una da 3,8 kg, però sempre preso, e poi di corpo calava la pescata, prendevi solo rate, prendevi la notte, qualche morbola bella, però era perché non ha detto uno che ci buttava le palamiti, c'era uno che c'era la cabina lì che butta le palamiti sempre. È tutto chiuso, è tuttora li butta, capito? Io ci ho provato un paio di volte, non ho preso niente, di qualcosa bella l'ho presa lì a Padona. Oh. Ah, Padona non sono mai andato. Comunque, praticamente, io da adesso, da quando l'ultima volta sono andato, non ho preso nulla, non ci sono più tornato. Dalla volta che sono andato con te, me ne passa da ragazzi, tutta la sera, la parte chi mi vado. No, io a Padona ho fatto delle belle pescate. Ma che cosa? Ma sabbia c'è a Padona? Sabbia secca, saraghi, qualche orata bella. Anche lì dove andavo io c'è la sabbia e roccia, però di roccia piatta. Tutti si incagliava la lenza, se andavi dove vado io. Poi un po' più in là, ti sposti i due metri e tutto roccia, ti si incaglia tutto. Se c'è troppa roccia o fa, deve essere secca e sabbia per pescare. E lì c'è la roccia, prendevi sale, prendevi orate, prendevi non grandi grandi ma le razze di notte. Razze e mormoroni di quelli belli, di quelle razze grandi. E io ci prendeva, ma ti parlo già anni fa, poi non sono più andato. Si pesca bene lì a Porto Torres dove hanno costruito quel molo nuovo. Ma lì se gira il mare di Emilia Piego, ti ammazzi, perché se il mare gira lì non ve la vai a fuggire. dove c'è il, ma dove c'è la, il molo, quello che hanno fatto al centro, quello che sto dicendo. No, ma quello dove quei massi che hanno messo andando dopo un Balagli, dove c'è il ristorante Scogliolugo. Hai visto, dice, se lì si gira il mare, dimmi da una parte all'altra, non grava la fuggi, perché se vai in punta ti frega. Lo so, però lì si pesca bene lo stesso. Io ho amici che ci vanno e stanno pescando bene. Già lo so, lì c'è, ci sono, c'è già mare di furi, lì capite già in alto mare. Se ne prendi quelle orate grosse, come capito? Sì, quello che vuoi, fra, ma ti dico, ti ripeto, una volta anche a Polo Caldaio ci è successo, tanto c'era il mare che saltava il muretto e noi eravamo nel mondo, e saltava il muretto, tanto dovevamo trovare il momento giusto per passare quando non c'era l'onda. A questo amico me l'ha fatto domani, era un miliardo in piedi. Eh beh, eh sì, vabbè, adesso l'ho potuto andare a Argentiera, ma c'è da camminare un bel per andare a pescare, capito? Lì all'Argentiera è buono, però ci devi camminare, devi fare un bel strada fili per arrivare al posto giusto. Io sono andato a Porto Palma, sono Argentiera. Oh, sono andato un paio di volte, non ho fatto niente. Franco, io non mi piace più tu. Magari era una giornata, non lo so. E a Porto Palma ci siamo andati in crepa e non abbiamo preso nemmeno un pesciolino, niente. Dietro il cimitero è buono l'Argentiera, ma devi fare un bel strada a piedi per arrivare giù. Vabbè. No, ma io voglio un posto tranquillo dove se devo scappare scappo. Non è che voglio un posto. Tanta lì, io cazzo non so che andate più a nessun luogo, più a nessun posto. Ui. Ieri ho preso la macchina per non rimanere chiuso in casa, per provare quell'antenna, una belva, L'ho provata sia in AM che in FM con Gianfranco. E invece io l'ho provata quella PC 800 e non c'ha la resa della frusta nera. E magari c'ha stazionare con la tua frana, magari l'hanno tagliata, fatta, chissà, ma quella di Natalino è sempre andata bene perché io l'ho provata con la tua 2001 e avevo lo stesso segnale, fianco a fianco, mi ha quadrato. La mia stazionaria non era 1-1, allora domenica io l'ho provata in campagna, praticamente ad Antonio stava arrivando Santiago 7, 5, cioè 6-7, no 5, e a Coso, a Marco gli stava arrivando 7 con la frusta nera, ho messo la Coso, la Sigma e stava arrivando 5, capito? C'erano due tacche di differenza di Santiago. Comunque la frusta nera è buona, ma la banda stretta, se tu vai in canali alti non è. Ma quella che ho io funziona da tutte le parti. Ma la lunga? Quella che ho io è lunga, è un metro. No, ne hai due, una lunga e una corta, quale di due? Quella da un metro, quella corta, e quella corta spara lo stesso. E comunque le fanno bene frusta nera, se voglio me la voglio. L'ho vista e mi fa l'assilio. No, non l'ho più visto in circolazione io, per quelle antenne lì. Ne avevo un'altra in campagna, la stavo cercando e non sono riuscito a trovarla, e sa dove cacchio è finita. Basta che cerchi frusta nera, assilio, e te la metto. E ce l'aveva anche cosa, ti ricordi di Luigi Chas? Eia! Lui ce l'aveva attaccata alla grondina, sempre con l'antenna, mi ricordo ancora con il Renault R4 che mi arriva via. Luigi non abitava dove c'era la bottega del Luigi di Lantarito lì, alla fianca? No, abitava in piazza Elisabetta, Luigi Chas. E magari aveva cambiato casa, non lo so. Io, questo Luigi che conosco io, faceva DJ a Radio Sassari, poi l'avevo visto in discoteca, faceva il DJ in discoteca, faceva il tecnico come la moglie. No, non era quello già. Stiamo confondendo persone. No, non era quello. Ah, no, non lo so allora. Questo Luigi che conosce lui era questo qua, che abitava vicino al negozio di Tartarino, alla pasticceria. No, non è quello, è un altro Luigi, quello che stiamo dicendo io e Franco. Luigi Charles è quello che stiamo dicendo noi. Lui era grasso e baffetti. No, non l'ho conosciuto, forse tu. Io mi sono convegliato, ma magari non ci ho mai avuto là. No, non conoscevi anche la donna del Maricoso, di Gian Piero Zingaro. No. Tu quanti anni ci sei in frequenza? Io forse ci sono prima di te. Sì, io una quarantina d'anni, avevo 18 anni a fare quando sono entrato in frequenza io. Però avevo un montaggio, non c'avevo un apparecchio grosso là. Ah, ecco, quindi Zingaro, cose intrepido, non li ha conosciuti, Luce? Sì, a Luce l'ho conosciuta, c'ha tutti da Luce. A Luisito? Sì, a voglia, ti pare fare con Sasso. L'altro giorno ho visto, ha messo una pubblicità lì su Facebook. È a Pescivedo, era a Pescivedo al mercato, il padre Franco, così. Veglia. Carissimo Natalino. Una volta, sai che esercizio, il viaggio a Vanni Pasqua, me lo ricordo sempre. Questo qui l'ha tamponato, se ne farà che lui si tratta la somma da faccia. Sai che tutti riguardo a questo che, ma lei come ha fatto a fare l'altro di corno? Ha mirato, mi ha sopravvata, se l'ha fatto fare a te. Tu mi grava il caso. Ehi, sì, l'ho conosciuto io, con Luigito, manca a lei, e quindi sono tutti conosciuti. Giulio Columba, tutti quanti li ho conosciuti così. Poi io frequentavo la Radio Club Nord Sardegna, avete riscritto. A quella della notte. Anche a quella della notte, che era il figlio di Mancalle. Esatto. Anche quello è morto, sono molto invece di vecchi. Fra, la vita è quella, si nasce, si cresce, si muore. Se ti va bene, se non vuoi muore giovane. Vai Natale. Natale, tu quanti anni ci sei in frequenza? Un bel. A vicino di 18 anni mi soggo. E che mi poi la macchina in mano, sei proprio più duco. Tu due baracchino gli ho preservato proprio io da Tarino, il cricchetto, di me. Sì, io mi rammento io. Lo sai che è molto brizzolato. Chi è brizzolato? Carmine, è quello che aveva il distributore in Piazza Santa, in via Principessa Maria. Certo, ma quello giovane. Lo zio di Giuseppe Cubidu praticamente, Carmine Cubidu si chiama. Era lo zio di Giuseppe. Non ricordo questo brizzolato, me ne ricordo, la moglie. Entrava anche la moglie di lui al baracchino. Era lo zio di Giuseppe. Cazzo, mi dicete che sta morendo, per carità. È morto anche Nino da poco, poverino. Già lo so, Nino Torre, bravo. Infatti, la vita bisogna goversela, capito? Tanto oggi non abbiamo niente, ci siamo domani, chissà. Dici, purtroppo la vita è quella, dai. Una volta che tu te l'hai goduta la vita. Io la tarde siamo andati a vedere anche a Mario Mauro quando è morto. Te lo ricordi, Natale? Cosa già che stava abbaiando, Kurt? Ho detto che siamo andati anche a trovare a Mario Mauro quando è morto. Infatti, io parlavo sempre con Mario. E la moglie ha conosciuto la voce, ma tu chi sei? Già ne do più lungo, ha detto sì. Ma poi tutte quelle radio che fine hanno fatto? Vendute li avevano? Sì, l'aveva date mi fare a Gio Maria, poi Gio Maria ha pensato a vendere, a quanto so io poi. Gaffa. C'avevo un po' di radio di quell'epoca, Mario. C'aveva il console, il console 2, tutti i baracchini di vecchia data. Sì, baracchina antica, diciamo c'era una stazione di roba antica, non è che c'aveva radio che costassero di recente, dai. Infatti mi pare che gli avevano detto di praticamente di eliminare quelle radio. Io capisco che è anziano, che se c'è il ricordo, però ne deve staccare perché non si possono ottenere quelle. Adesso devono essere la norma cielo e radio, capito? Sì, la norma cielo. Ma che bello sotto la norma cielo adesso. di quelle che vendono adesso, sì, se no non si possono ottenere. Anche l'omologato che ho io è a norma CE, capito? Infatti non serve nulla, però è vabbè lo stesso. E il 3009 già è bello, altro che no. Il 2009 a norma ci hanno fatto, poi cosa hanno fatto? Quell'altro apparecchio della Polmar, quegli altri apparecchiti che non servono a niente, che non c'hanno radio, non vale nulla, che tu li apri e c'hanno il circuito stampato che sembra carta igienica. Sono un microcircuito. E infatti il 2009 ancora c'ha il circuito di quelli di una volta, a PLL. Invece questi di altri c'hanno microcircuiti che non ci puoi lavorare. Oh, secondo questi invece brucia tutto, non servono a niente, lo spacciano dei trimmer piccolissimi. Lo so. L'unico è il 2009 che va bene, io ce l'ho. Ogni tanto lo uso. E mi ha detto che anche col suo microfono va bene. Va benissimo, non bene, il 3009. Ce l'ho anche io qua, l'omologato. Infatti non c'ha né canali né niente il mio. Come l'ho comprato l'ho lasciato. Vabbè, ma quello si può modificare tutto con l'apparecchio lì. Ehi, già lo so. Infatti la levetta dei canali non agisce perché l'ho lasciato così, se no per di... se tu lo modifichi perdi l'omologazione. Certo che sì. Non si può modificare, no? Non si può modificare. Ehi, già lo so, così può alzare la potenza, si può ne buoni di canali. Però è cosa che lo lascio così. Ma esce bene così, anche monogatto esce bene. Ha una bella radio. Anche Marco quando lo usava mi piaceva, per quello me l'ho preso, perché l'ho sentito da lui e mi piaceva la sua modulazione quando modulava. La costa adesso, 180 euro. Adesso non so nemmeno se si trova più, Non ha preso lei, mi sarei contato sulla 150, 160, l'avevo visto. Vabbè dai, io vi lascio che devo scendere a portare giù il cane, che sta abbandonando, che vuole scendere. Dai, ci sentiamo, mi è venuta a trovare. Ciao Gigiolino, vuole scendere giù, dai, giù compreso. Vabbè, ciao già, buona passeggiata, buon tutto. Grazie per le quattro chiacchiere del QSO, ci sentiamo alle prossime, là. Avanti Franco. Questo le riprendo io, ciao Gianni, buon carica, buon tutto e ce la riascolta le prossimine. Vai Natali. Ma fuori squalo oggi non si è sentito. Ciao ciao. Ehi, sarà sul 23 lui. Non c'è più, oramai è già chiuso. Sono le 8 infatti. Io via. Adesso scaldo la roba e cominciamo a mandigare. Cosa fa? E comincio a mettere i piedi sotto il tavolo. A cenare va. E allora ci sentiamo, là, ci aggiorniamo. Io lo stesso ho già mangiato, perché io a chidura devo mangiare. Poi a rinubi mi ha giù di misurato la glicemia e fammi l'anizione. Andare. Vabbè dai fra, grazie per le quattro chiacchiere. Ci sentiamo alle prossime, alla buona cena, buon tutto. Salutami a Lucia. Questa è la cosa, cambio tutto da parte mia e da parte sua e ce la riascolto alle prossime, ci aggiorniamo. Ciao a tutti, anche a quelli che sono in ascolto. Con me signore Tisci, ciao a tutti. Attento Luca!